Salve amici, sono Stefania, sono qui insieme all'amico Giorgio di Radio Big World con il mio programma Il Popolo di Barabba. E stamani mattina c'è tutto il popolo di Barabba nel racconto che vi voglio fare. Credo che questa non sia una ripetizione, alcune volte mi sono ripetuta, questo però è un inedito. Allora, ho una mia carissima amica che ha avuto la fortuna, la sfortuna, non si sa, di ereditare alcune cose. Tra queste cose ha ereditato anche un appartamento affittato in una località in provincia di Firenze. Questo appartamento affittato era stato affittato ad una famiglia rumena. Va bene, tutto a posto. Dunque, per un anno questo capofamiglia è stato veramente impeccabile nel pagare l'affitto, anche se non pagava l'aumento Istat. Io non so, per chi ha in affitto gli appartamenti sa questa cosa, che ogni anno c'erano delle rivalutazioni, ma erano nell'ordine di 9-10 euro così. Negli anni poi questi possono arrivare anche ai 50 euro. Lui ha sempre pagato il solito canone. Dunque, a un certo punto, dopo un anno e qualche mese, la mia amica non si vede recapitare l'affitto. Ah, come mai? Come mai? E tutti gli dicevano: ma meno male che ti paga, meno male che ti paga. Ma lei, insomma, era talmente fiduciosa nell'essere umano, diceva: ma perché non mi deve pagare? Qualora ha delle difficoltà mi contatterà e ci ragioneremo sopra, vediamo come fare, non sono certo un cane. Lui non paga e lei non vede, non sente informazioni, quindi telefona. Nel momento in cui telefona, premetto, questa persona non parla molto bene l'italiano, o perlomeno sembrava, a detta della mia amica, che non parlasse bene l'italiano. Poi invece si è dimostrato che lo capisce molto bene e soprattutto capisce molto bene le leggi italiane. Telefona la mia amica e questo signore gli fa: bene, ha telefonato, quindi perché io non ho pagato l'affitto, perché ho trovato un lavoro a Milano, mi trasferirò a Milano, entro fra 2 mesi dovrei concludere il tutto, e quindi mi sono trattenuto l'anticipo che avevo dato a suo tempo alla persona, allo zio che era deceduto di questa mia amica. Quindi si era trattenuto praticamente la caparra, cosa che non poteva, però lui, secondo lui, era giusto così. E la mia amica dice: va bene, sono contenta per lei, spero che il lavoro che ha trovato a Milano sia un lavoro migliore e ci risentiamo per le chiavi e per tutto. Sì, bene, bene, bene. Dopo 2 mesi la mia amica richiama e questo signore gli dice che hanno fatto dei casini, io ora non posso parlare, non posso dire nulla, quindi mi faccio vivo io. Va bene, quindi lei accetta questa cosa, peraltro una persona anche un po' minacciosa nel parlare, ecco. E gli disse anche che lui aveva pagato tanti mila euro e che quindi, insomma, aveva sempre pagato e ora poteva anche chiudere un occhio. La mia amica gli disse: guardi, non ci sono problemi, certo ha sempre pagato, ci possiamo incontrare, ci mettiamo d'accordo, se lei ora ha necessità vediamo come fare. E lui, stizzito, gli rispose che sarebbe stato lui a chiamare. Sono passati dei mesi, questo signore non si è fatto vivo, la mia amica ha mandato una prima raccomandata scrivendo quello che si erano detti per telefono, perciò che lui praticamente andava via e avrebbe lasciato la casa libera. Questo non è successo, l'affitto non è stato pagato, il condominio non è stato pagato perché questo non ha pagato neanche il condominio e l'ha dovuto pagare la mia amica. Ecco, sono passati dei mesi, questa ragazza chiaramente ha messo tutto in mano all'avvocato, questo signore ha mandato un messaggio quasi minatorio dicendo: se non ti sta bene così chiama i carabinieri. E l'avvocato ha spiegato a questa mia amica, dice, sì, fanno tutti così. Dice, perché conoscono benissimo la legge italiana che li tutela fino in fondo, mentre non tutela i proprietari di appartamento. Tu dovrai pagare, cara ragazza, gli ha detto l'avvocato, oltre al condominio, probabilmente anche la Tari, se questo non la paga, e probabilmente anche altre spese. Infatti si è accorta che ha dovuto pagare anche il riscaldamento a questo signore. Dunque, la mia amica si sta sobbarcando tutte queste spese che sono nell'ordine di 1.000 euro, oltre alle spese dell'avvocato che si aggirano intorno ai 4.000 euro, forse di più a causa conclusa. E forse questo signore gli ha fatto, chiaramente la mia amica gli ha fatto lo sfratto per morosità, e questa mia amica probabilmente ritornerà in possesso dell'appartamento nelle condizioni in cui gli verrà reso, non si sa, probabilmente fra un anno e passa, perché c'è il caso che dentro a questa casa ci stiano anche due bambini che originariamente non c'erano, poi è venuta un'altra famiglia, forse quella del figlio, con due bimbi. Quindi se ci sono minori, il giudice può darsi che dia anche delle proroghe abbastanza lunghe. Tutto questo nella consapevolezza totale che queste persone hanno nei confronti della legge italiana che gli consente di stare in un appartamento senza pagare, probabilmente non pagherà neanche la Tari, la tassa dei rifiuti, senza pagare niente, e se ne andranno solo quando arriverà le forze dell'ordine a buttarli fuori, probabilmente tra un anno e mezzo, chissà, perché i giudici emettono le sentenze standard. Come è questa persona? Bene. Quanti minori ci sono? Bene. E allora si fanno tante proroghe. La mia amica è rimasta veramente costernata di fronte a uno che si comporta in maniera delinquenziale, che io non avrei mai agito in questa maniera. Gli si consente anche delle proroghe. La legge italiana gli consente delle proroghe. E loro lo sanno benissimo, detta dall'avvocato, dice certo che le sanno queste cose, e ha raccontato per filo e per segno l'iter al quale questa ragazza andrà incontro, perché ormai sono standardizzati. Dice la legge, nel tutelare i più deboli, tutela anche i criminali, tutela anche i criminali. Ditemi voi se questa è una cosa regolare. Non solo, ma ci sono anche le tasse da pagare su introiti che non sono stati incassati. Ho consigliato alla mia amica di inviare una lettera al ministro, all'attuale ministro Bonafede, spiegando appunto che è una legge iniqua e che dovrebbe essere un attimino rivista, quantomeno quando si vede la malafede delle persone, perché qui c'è malafede. Laddove, chiaro, non c'è malafede, ma c'è l'impossibilità delle persone di pagare un affitto, è chiaro che nessuno è un cane, cioè perlomeno questa ragazza non è un cane, sarebbe sicuramente andata incontro all'inquilino qualora questo avesse avuto delle serie difficoltà e avesse dimostrato la sua grande dignità e la sua grande volontà e onestà nei confronti di chi gli ha affittato appunto la casa. Io mi ricordo quando ero piccolina, abitavamo in una casa che non era nostra, mio padre era ligio e bigio, e quella casa, quando l'abbiamo resa, era migliore di quando ci siamo entrati. L'avvocato ha raccontato alla mia amica che probabilmente quella casa gliela renderanno distrutta, perché è così ormai che succede. Voi che legiferate, che fate le leggi, ecco, dico, ma un occhio un attimino più ampio nel panorama umano si vuole dare quando facciamo delle leggi? Perché c'è la persona in difficoltà, c'è il criminale, ma ci sono le persone furbe che ci marciano dentro a queste leggi. Grazie.